GR Europa. Già che ci siamo, chiudiamo definitivamente Strasburgo. La notizia della fuga d'amianto durante i lavori di ristrutturazione della sede francese del Parlamento europeo ha scatenato la reazione degli europarlamentari ed in particolare dei leghisti. Secondo Mario Borghezio, la chiusura definitiva sarebbe doverosa lunedì prossimo, quando comincerà la sessione plenaria di marzo. Molti deputati torneranno a chiedere la sede unica a Bruxelles. Intesa solo rinviata in Europa sul tetto dei bonus dei banchieri, la Gran Bretagna ottiene il rinvio all'Ecofin di ieri, che però non dovrebbe mettere in discussione un'intesa finale. Mario Nava, direttore per le istituzioni finanziarie alla Commissione europea, spiega cosa prevedono i nuovi requisiti di Basilea 3 per le banche al microfono di Sergio Nava. Questo direi che comporta un cambiamento, oserei dire, epocale della legislazione bancaria. Prima di tutto abbiamo finalmente quello che si chiama il Single Rule Book, cioè un libro delle regole unico in Europa. Ci siamo liberati di una serie lunghissima di eccezioni nazionali, eccetera, eccetera. Quindi comporta che veramente c'è un mercato unico per il settore bancario, che le imprese, le banche, i risparmiatori possono sfruttare, ma poi soprattutto comporta un aumento notevolissimo della resistenza e della forza del mondo bancario, nel senso che i requisiti di capitale vengono aumentati. Per la prima volta nella storia abbiamo dei requisiti di liquidità armonizzati. Fino ad ora i requisiti di liquidità erano solo e soltanto nazionali, creando problemi. Grand Coalition for Digital Jobs, ne abbiamo parlato in questa settimana, dunque la richiesta di 900.000 figure specializzate nel mercato digitale. Dunque sulla certificazione delle competenze interviene nel dibattito Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. C'è comunque una richiesta oggi di esperti di informatica e quindi la necessità di avere ulteriori esperti in questo campo. Certo, è una materia molto delicata dove non ci sono però regole precise, dove c'è anche molta improvvisazione e anche, diciamo, rischi per i cittadini, perché oggi la sicurezza dei cittadini passa anche per la sicurezza degli impianti tecnologici, molte volte sono legati alla sicurezza dell'informatica, dei sistemi di hardware e di software. Quindi noi siamo per una certificazione di queste competenze e addirittura come Consiglio nazionale stiamo avviando già un percorso importante su questo, in modo da dare ai nostri committenti le massime garanzie sulla qualità dei nostri iscritti, sulle competenze certificate dagli ordini professionali. Armando Zambrano al microfono di Laura Bettini. Infine, verso l'8 marzo la Commissione riflette sulle mutilazioni genitali, in particolare infibulazione, che come spiega Lucrezia Titi della Direzione Giustizia della Commissione europea rimane una realtà drammatica anche all'interno del continente. Le mutilazioni genitali femminili rientrano in una serie di priorità da affrontare da parte dell'Unione Europea all'interno della strategia per l'uguaglianza tra la donna e l'uomo 2010-2015. Riguarda diverse centinaia di migliaia di donne che vivono nei nostri paesi ed è un problema che tocca almeno 13 paesi nell'Unione Europea, Italia compresa. Possiamo quantificare anche il fenomeno in Europa, per esempio? In Italia questo problema riguarda circa 35.000 donne, secondo delle stime del 2009. Si stima anche che ci siano circa 1.000 ragazze a rischio. Tocca donne che vivono in Europa, anche se non ci sono dei dati precisi per quanto riguarda se questi atti vengano commessi in Europa o meno. E con questo è tutto, Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono, l'appuntamento con GR Europa domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.